Il giorno seguente, i primi raggi del sole, l'anatra portò i suoi pulcini verso il fossato. Adesso scoprirò se questo brutto anatrocolo è veramente mio figlio. Se non sa nuotare, lo caccio. Ci dubbo che sono e gorro, ci dubbo.